siamo un, sì, un gruppo di una trentina di avvocati che provengono da tutte le città italiane, oltre che da Roma ovviamente, e siamo dislocati, c'è questo, diciamo, questo centralino che funge un po' da coordinamento, e poi tutti gli avvocati sono dislocati in questo momento nel corso, insomma, lungo il corteo, nei vari spezzoni. Stamattina tutti appunto i colleghi sono stati nelle varie iniziative in giro per Roma, e devo dire che insomma la situazione è stata abbastanza tranquilla, eccetto momenti di tensione, ma che sono insomma durati veramente pochi secondi, sono rientrati, per cui devo dire che insomma anche le iniziative di stamattina sono state estremamente, insomma, non abbiamo rilevato, non c'è stata segnalazione di alcuna anomalia o di insomma eventuali problemi, e invece niente, quindi anche adesso insomma noi ci speriamo, ci auspichiamo che si svolga tutto in modo pacifico come fino a questo momento, e che non ci sia quindi necessità di interventi da parte degli avvocati. Momenti di così, diciamo, di tensione che ci sono stati per esempio vicino Piazzale Aldo Moro eccetera, sono stati gestiti nel corso di pochi minuti, c'erano anche degli altri avvocati lì, per cui devo dire segnalazioni di particolari non ce ne sono stati.